recogerán. Io continuo a remare, ma no, che non finisce mai. Questa barca comincia a fare acqua, ed ora smetto, non remo più. Ed ora rivedo il mio passato, è tanto lungo che non sembra proprio il mio. E il silenzio di questi anni dolorosi mi hanno tormentato e torturato a lungo. Sto piangendo, e sì che lo faccio anche un po' per te, ma tanto so che non ti importa niente, quel che importa è mantenere la tua integrità. Ma questo mondo è pieno di egoismo e di falsità, pieno di odio, di potere e corruzione, chissà che altro ancora. Sono in alto mare, ma questo mondo è pieno di egoismo e di falsità, pieno di odio, di potere e corruzione, chissà che altro ancora. Sono in alto mare e sto gridando. Faccio solo per chiamare aiuto, ti sto lanciando un messaggio che spero proprio tu raccoglierai, raccoglierai.